all'ospedale, vai e la prendi. Ho detto vabbè, vado all'una, vanno qua, all'una, vado a prenderla. E avevo una visita e sono arrivato alle due. Tanto, ma guarda, avevo una fame già, che non arrivavo per staccare da casa perché stavo scendendo, lo sai. E ci credo, perché io guarda, poi ti dico la verità, ho fatto di continuo dalle 8:30 fino all'1:30 senza fermarmi un attimo. Già, ma come di trasporto, di consegna fatto? È abbastanza, poi tutte grosse, tutte molto grosse le ho fatte a pedale, tutte consegne grosse. Ieri ho fatto Fiume Santo. È un casino entrare, stanno facendo la tubazione praticamente dalla centrale che hanno fatto esternamente, quella fotovoltaica, praticamente fino ad arrivare a Fiume Santo stanno facendo tutto un buco, un bel grande, allucinante, ci sono i semafori per farti passare. La fila delle macchine prima fuori, poi all'interno di Fiume Santo, qua non finisci. Ah, beh, giusto, quando ci sono questi lavori già, sai com'è, non si sa quando iniziano, ma non si sa quando terminano, hai capito, il discorso è quello. E avevo due pedali un bel grossi, siccome lì c'è una bocca di scarico che arriva quasi alla pari col furgone, non dico proprio alla pari, ma quasi alla pari, quando il carico è normale. Ieri avevo un bel di carico e me l'ho abbassato un bel furgone, quindi c'era un bel di dislivello. Ne ho dovuto smantellare due pedali e farne un'altra in più per farlo scendere, perché se no non ce la facevamo. È allucinante, allucinante. Vabbè, vuol dire che c'è una breve richiesta già, meglio così. È meglio per loro, io già penso sempre lo stesso stipendio. Vabbè, quello sì, quello sì. E sono d'accordo con te. Troppo lavoro, però lo stipendio è sempre lo stesso. Aumenta tutto quanto, però lo stipendio è sempre quello. Caro Gianni, siamo nati per soffrire e dobbiamo morire soffrendo. Che voce a casa abbia voluto buoni aerei a fare i suoi costruiti, a vedere. Vedrai che mi era passata anche la gana di fare quello che fai tu già, di consegnare quella roba là, a vedere se le ossa non se le avevo fatte. Ma se quando sono andato in fila ho preso un ragazzo, mi hanno detto insegnali il lavoro. Bene o male, di fare le cose principali, quello che deve fare, eccetera, eccetera. È stato un giorno con me, qui il giorno dopo dovevo andare in fila, e il giorno che stavo imparando a mettere nonno, io qua non ci voglio più stare, tu mi non te ne andare adesso che devo andare in fila, se no mi bruci i fili. Ma hai detto, oh, vabbè, ci sto un altro giorno, sino quando tu vai e parti, perché devo partire. E poi me ne vado. Poi c'è stato un giorno, infatti il principale chiedeva a tutti se era partito assieme a me. Gabba. Seria allucinante. Diceva, ma cosa è andata a farsi le ferie insieme a Giada? Per carità. Vabbè, hai sempre detto già, quando una cosa non la sai, vedi, impara. Vedendo si impara, no? Dice il proverbio. Però cerca di metterti buon impegno e vedi cosa fanno gli altri e lo impari anche tu e sarai ricambiato. Ma ce n'è poca gente che ha voglia di fare le cose, come vede un po' di lavoro, sta su, sei zinnata. E diciamo anche con il carattere dei due principali che sono non avranno pigliato a volte, senz'altro. No, ha visto che lavora da troppo e ha detto che la schiavi lavorare così, e quello non era lavoro, quello era fare gli schiavi, ma di tanto... Ma cos'era, un ragazzino era? No, non era ragazzino, avrò avuto una trentina d'anni. Se avrebbe detto a me, cazzo, sarei andato correndo, altro che... Mi sarei fatto un cazzo dalla mattina alla sera, ora io ho continuato, non vorrei essere fregato un cazzo, avrei sempre trovato. Poi alla fine dei conti, avrebbero riso, chi avrebbe guadagnato di più, io o loro? Giuseppe, non è facile, dai, non è come dici tu. Quando cominci a fare poco di carico, vedi, se ti passa la gara di fare orario continuato, come dici tu dalla mattina alla sera, fatti un po' di scarico come l'ho fatto io oggi, una cosa in massaggio, due carrellate di roba piene, 10 casse d'acqua più altra roba. Due carrellate piene portate all'ultimo piano in mansarda e manco grazie ti dico. Chi è questo già? Tambo. Goodbye stranger. Goodbye stranger. Ascolti Italy, Italy from Sardinia. C'era un ragazzo, no? Che era via Napoli e io la lasciavo indietro. Ma lo sentivo al basso. Non so se era in macchina o a casa sua, però era un bel basso. La San Pietro a via Napoli dovrebbe essere abbastanza alto, no? Come segnale. Dipende se c'è qualcosa che ci ostacola. Di fronte al padiglione quello rosso, hai capito? Dove c'è il reparto infettivi, reparto di cosa quello. Il padiglione rosa, hai capito? Quello lì. Io gli ho capito, lì c'è un fosso su. Mi stavo ascoltando basso, un bel basso, dice sì. Ah, toccato le due compagne ho io. Cazzo, se ci sono parati in mezzo alle scatole. Io ho la macchina dentro l'ospedale perché devo prendere un paziente e sono entrato dentro. Cappa. La schiena si sta. La mattina si stava lamentando perché deve essere un sempre a schiena passata, perché dobbiamo mettere questi cazzo di catti di codipo di come cazzo si chiamano i codi, i blocchetti, a portare i blocchetti da 8 cazzo e metterlo di questi, stavamo aperta facendo tipo una casetta, hai capito? Senti a cosa, lì se organizziamo qualche cosa, qualche arrostito. Sì? A cosa? A grotte. A chi hai detto già? A grotte.